Con Carl, uno dei curatori del Bike Tour della Decrescita da Roma a Napoli dal 31 agosto al 9 settembre. Carl, ben trovato. Grazie. Non è la prima edizione, ci parli un po' della storia di questa manifestazione? Sì, allora è nata 2 o 3 anni fa all'Assemblea Nazionale del Movimento per la Ricrescita. È venuta fuori quest'idea di fare un viaggio nei territori d'Italia, innanzitutto il sud, dove abbiamo fatto il primo viaggio, quindi l'abbiamo fatto il primo viaggio 2 anni fa da Lecce a Palermo, l'anno scorso da Ancona a Siena e quest'anno appunto da Roma a Napoli. Lo spirito è sempre lo stesso, noi andiamo da un posto all'altro e incontriamo per strada delle realtà, dei progetti che ci sembrano virtuosi, che ci incuriosiscono, che ci ospitano, con cui ci confrontiamo su quello che loro fanno sul territorio, che spesso sono progetti agricoli, progetti sociali, economici diversi che ci sembrano interessanti per il discorso della decrescita, e poi facciamo anche insieme degli eventi pubblici, dei dibattiti, delle presentazioni e dall'anno scorso anche degli spettacoli dei ragazzi di altri mondi bike tour che vengono con noi. Considerato che sono 10 giorni, ogni giorno una tappa, un incontro e un evento? Più o meno così. Adesso devo dire che anche noi con gli anni abbiamo imparato, quindi abbiamo fatto anche per così dire, una decrescita del bike tour della decrescita, nel senso che lo facciamo un po' più breve rispetto all'inizio, un po' più corto anche, e fermandoci anche in alcuni posti 2 notti, e questo però ci permette da un lato di entrare in un contatto un po' più profondo con i luoghi che visitiamo, no? Abbiamo più tempo per conoscerci, per scambiare idee, opinioni, e siamo anche riusciti così a portare molte più persone rispetto al primo anno, no? Quindi anche noi stessi abbiamo imparato che meno spesso è meglio, in questo senso. Qual è la distanza tra una più o meno di media tra una tappa e l'altra? Adesso pedaliamo tra i 40 e i 70 km al giorno, che vuol dire comunque nei giorni in cui pedaliamo facciamo tra le circa 4 ore al mattino e 2-3 ore al pomeriggio di pedalata. Poi la bella pausa pranzo al mare, adesso siamo ancora a Sperlonga, poi adesso per esempio stasera ad Itri in piazza ci sarà questo spettacolo di Altri Mondi Bike Tour che parla come dire, della scienza, del mondo non umano, ed è un po' uno spettacolo contro l'antropocentrismo che sicuramente uno dei problemi un po' della nostra società, no? Che ci sentiamo così soprattutto il resto, sopra la natura, eccetera. Senti, ecco, Quindi tu hai. rispetto alla scelta degli spettacoli e degli eventi, come vi siete mossi? Diciamo che lì si parte un po' da 2 o 3 lati diversi, no? Spesso ci sono delle cose che già in qualche modo conosciamo, abbiamo sentito, siamo incuriositi ad andare a trovare, come per esempio l'anno scorso la realtà di Mondeggi vicino a Firenze, o quest'anno l'ex asilo Filangieri di Napoli, questo spazio occupato nella logica dei beni comuni che già conoscevamo, e poi uno costruisce pezzo pezzo un percorso, e poi a volte ci sono come dire, dei tratti in cui ci serve ancora qualcosa, un luogo, una realtà da incontrare, però devo dire che c'è una tale densità in realtà di progetti bellissimi, fantastici, ecologici, sociali, innovativi in tanti modi, che non è mai stato un grande problema trovarne. C'è anche questo bellissimo progetto di mappatura di Italia che cambia, che che è una realtà con cui collaboriamo molto, che già mappa da tanti anni tanti di questi progetti di transizione. Oggi, per esempio, poi abbiamo anche a Borgo Ermada, una frazione di Terracina, abbiamo incontrato dei ragazzi di un sindacato, diciamo, che si occupa dei lavoratori agricoli SIC, principalmente, che lavorano lì in zona e si muovono anche loro in biciclette, più per necessità chiaramente, però su delle strade spesso molto pericolose. Quindi c'è lì un progetto che cercano di chiedere ai comuni di mettere in sicurezza dei tratti stradali con le piste ciclabili. Questo mi sembra anche un bel esempio, come per esempio l'integrazione, no? Di persone immigrate che poi lì lavorano e sono fondamentali per l'agricoltura, possa anche portare forse a una mobilità diversa in questo caso, no? E portare un arricchimento anche culturale, no? Che poi in realtà lì in quel territorio mi è colpito come questo, no? Di andare al lavoro in bicicletta era in realtà alcuni decenni fa il modo normale per spostarsi, chiaramente, no? Prima dell'avvento in massa dell'automobile, no? Avvento che poi adesso ha reso spesso pericoloso andare in bicicletta, no? Che è un bel esempio come non sempre il progresso porta, il cosiddetto progresso porta veramente a un aumento del benessere, no? Ma porta anche con sé molti problemi. Questo è un esempio concreto poi della filosofia della decrescita, no? Di mettere un po' in dubbio questa idea che sempre di più, avere sempre di più, spendere di più, consumare di più ci rende felici. Noi siamo invece convinti che spesso non è così, meglio avere più tempo per con calma al mare, con gli amici, fare una pedalata e consumare un po' di vestiti in meno, non avere la macchina, cose di questo tipo, e così allo stesso tempo essere anche rispettosi dell'ambiente in cui tutti viviamo. Carlo, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, potete trovare un sacco di informazioni se cercate Movimento per la Decrescita Felice, c'è cioè il sito decrescitafelice.it, e poi su Facebook c'è sia il sito del Movimento per la Decrescita Felice in generale, che la pagina del Bike Tour della Decrescita, su cui trovate anche tutti gli eventi che ci saranno ancora i prossimi giorni, in particolare lo spettacolo stasera a Ditri, poi un incontro a Castelvolturno con delle cooperative di Libera e due serate a Napoli, questo venerdì, questo sabato poi la chiusura all'ex asilo Filangieri. Benissimo, ricordiamo allora la terza edizione del Bike Tour della Decrescita da Roma a Napoli dal 31 agosto al 9 settembre. Un ringraziamento e un saluto a Carl. Carl, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, grazie Federico.